non comprendi Dio e non conosci la sua indole. Il tuo cuore non può aprirsi a Lui. Il tuo cuore non può aprirsi a Lui. Quando impari a conoscere Dio, tu comprendi cosa ha nel cuore. Godrai di tutto quello che c'è in Lui, con fede, cura ed attenzione. Quando assapori ciò che ha nel cuore, pezzo per pezzo, giorno dopo giorno. Quando assapori ciò che ha nel cuore, il tuo cuore si aprirà a Lui. Quando il tuo cuore si aprirà davvero, quando il tuo cuore si aprirà davvero, vedrai il disprezzo, la vergogna delle eccessive tue richieste. Quando il tuo cuore si aprirà davvero, quando il tuo cuore si aprirà davvero, vedrai un immenso mondo dentro Lui. Sarai in un regno di meraviglia. Non c'è più oscurità, ma l'inganno in un tale regno. Solo luce, fede e verità. Tutto sarà giustizia, e gli amore e premura, infinita compassione. Senti la gioia di essere vivo, se apri il tuo cuore a Dio. La saggezza e la potenza, la sua autorità e l'amore, un immenso mondo dentro Lui tu troverai. Quando il tuo cuore si aprirà davvero, quando il tuo cuore si aprirà davvero, vedrà un immenso mondo dentro Lui. Sarà in un regno di meraviglia. Quando il tuo cuore si aprirà davvero, quando il tuo cuore si aprirà davvero, potrai vedere ciò che Dio ha. Potrai vedere ciò che Dio è. Cosa gli porta gioia o dolore, ciò che gli dà tristezza oppure rabbia. I tuoi